Vivo Salute di Nicoletta Carbone. È ora di occuparsi della trasmissione aerea del Covid-19, così 239 scienziati di 32 paesi scrivono in una lettera aperta all'OMS per sottolineare come esista un potenziale ma significativo rischio di inalare il virus contenuto nelle microscopiche goccioline respiratorie che restano più a lungo nell'aria e possono essere inalate più profondamente nei polmoni. A Obiettivo Salute ne parliamo con il professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia e direttore del Dipartimento di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. Professor Richeldi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. La lettera di questi esperti mette in evidenza il fatto che sia possibile la trasmissione anche di questo coronavirus attraverso la via aerosolica, non solo quella delle goccioline, che sono quelle più grosse emesse con la tosse e con gli sternuti. Questa è una cosa che era già stata identificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma solo relativamente a procedure mediche come tipo le broncoscopie o l'intubazione. Ora questi scienziati non portano nuovi dati, ma vogliono ancora mettere sul piatto della bilancia il fatto che questa potrebbe essere una possibilità, quindi richiamare all'attenzione di quelle misure che noi sappiamo essere importanti per contenere la trasmissione del virus. Professor Richeldi, ma la carica virale di queste goccioline all'esterno si riduce, diminuisce, e nei luoghi chiusi il distanziamento e la mascherina sono sufficienti a proteggerci? Direi proprio di sì. I luoghi chiusi sono certamente più pericolosi dei luoghi aperti ed è importante ricordare anche come la ventilazione dei luoghi chiusi sia importante. Ad esempio fare corrente tra una porta e una finestra o evitare che stanze rimangano non ventilate per lungo tempo. Rimangono sostanzialmente valide le indicazioni che abbiamo in questo momento, cioè il distanziamento sociale è certamente la base della riduzione della trasmissione del virus, l'uso delle mascherine soprattutto nei luoghi chiusi e quando il distanziamento sociale non sia possibile. Non cambia niente, non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo semplicemente portare attenzione su quello che già sappiamo, cioè quello che è stato raccomandato ormai tempo fa sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dai vari governi. Grazie per il professor Richeldi per essere stato con noi. Professore, buona giornata. Buona giornata anche lei, grazie. E buona giornata anche a voi, come sempre, come ogni giorno vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per i nostri incontri a tu per tu. Oggi parliamo di gambe, non mancate, vi aspetto. Una buona giornata da Nicoletta.